trasparente, e quando prometto è perché credo al 100%. Non amo il gioco d'azzardo. Come posso allora promettere al mio innamorato qualcosa che so di non avere la certezza assoluta di poter mantenere per tutta la vita? Posso promettere che ci metterò tutto il mio impegno, ma sarei ipocrita se non pensassi che folli tentazioni future, per entrambi, potrebbero far saltare il bel castello costruito con amore. Ma chi si sposa promette sotto sotto di metterci tutto l'impegno possibile e poi se finisce peccato, oppure crede veramente nell'eternità dell'unione? Sono troppo razionale? Anna, bilancia sempre in bilico tra idealismo e onestà. Anna, scusami se ho dovuto eliminare qualche decina dei condizionali che costellavano la lettera e comunque ne sono rimasti abbastanza da disegnare la situazione. Tutti i tuoi dubbi sono una costruzione fantasmatica fondata su cose lontane che forse potrebbero succedere, ma che di fatto al momento non esistono. Ti preoccupi di un figlio che ancora non c'è, di un matrimonio di cui non si è ancora parlato, di una promessa, quella che eventualmente dovresti fare sposandoti, che si pronuncia davanti al sindaco, al prete, che come tutte le promesse umane si può disattendere. Prometto, metto prima della vita, che poi porta le sue variazioni. Quando, e no, poi non ci sono punizioni corporali, voglio dire, se un matrimonio naufraga, e sicuramente è più onesto spesso chiudere che continuare a trascinare il morto. Allora, quando si dice quel sì, è un atto di fede, è una speranza, uno ci spera. Ma l'unica cosa certa dell'esistenza umana è l'incertezza. La tua lettera traccia la mappa di un amore indebolito, non finito, non ancora, ma sprofondato nella dolcezza di un'abitudine. Il periodo della follia d'amore è un ricordo e tra le righe si capisce quanto tu lo rimpianga. E adesso, se pensi alla follia, è sotto forma, come scrivi, di folli tentazioni da parte dell'esterno, segno che queste tentazioni ti hanno già toccato o quantomeno che ci hai fantasticato. Questo tuo orrore verso il matrimonio, secondo me, è piuttosto formale, perché tu sei già sposata. Perché andare a vivere con un uomo, dormire con lui, insieme tutte le notti, e insomma, vivere insieme, è una promessa, ed è una promessa molto più forte e solida di quella che si fa col rito pubblico e firmando delle carte. E però non te la senti di formalizzare qualcosa cui sei già sordamente indifferente. Tu stai almanaccando sul rifiuto di un matrimonio e lui ancora non ti ha chiesto di sposarvi, per mascherare il rifiuto attuale di una situazione un po' stagnante. Mi sembrate avviati, come la maggior parte delle coppie, a fare un figlio quando sono già un po' stufe. Dio ve ne guardi. Un figlio non è un mastice. Quella sì è una promessa e va mantenuta. Scrive Matteo: voglio provare a sfidare il suo disincanto e raccontarle di Momus. Oh, scusa, a parte che è veramente mirabile come la percezione degli altri ci trasformi sempre in qualcos'altro. Ma quale disincanto, Matteo? Io sono una romantica forsennata. Tutti noi diamo luogo, evidentemente, a tanti equivoci. Comunque, continuo la tua lettera. Momus, sì, Momus, alla francese, con l'accento sull'ultima sillaba e la S ben scandita e un po' sibilante. Momus è una donna, incontrata per caso, che ha dato un senso ai miei errori. È successo come in quella pubblicità dove una balena cade dal cielo sulla testa di un tizio che sta in cima a un palazzo. Si può forse ignorare un evento del genere? Momus è la balena caduta sulla mia testa. Mi ha riconosciuto subito, mi ha voluto, mi ha afferrato per i capelli e mi ha fatto una proposta che posso solo accettare, altrimenti sarei uno sciocco. Momus è la donna che non chiede nulla e che per questo avrà tutto. Tanto poco che sia, il mio tutto sarà per lei. Perché Momus? Perché è una combinazione delle iniziali del suo nome con l'aggiunta di una S in modo che sappia di bohème. E il nonno di Momus era un cantante d'opera. E io sono musicista, permeato di musica fin nel midollo. Non le sto scrivendo perché lei legga la lettera alla guardiana del faro. Ma certo invece che la leggo. Tu ci hai chiamati a testimoni del momento incontaminato e leggendo sentivo quel piacere della profanazione angelica di quando cammini per primo sulla neve appena caduta. Grazie, Matteo. L'ho incontrato a una festa